State ascoltando Radio Forte, la radio mostruosa. Questa è la striscia del Frezza. Dopo lo strabiliante successo della striscia dedicata al blues e della striscia dedicata al funky, per non parlare di quelle dedicate all'industrial, al punk hardcore e al deathcore e addirittura alla striscia flamenca, eccoci arrivati alla striscia del treccia numero 12, dedicata all'hip hop e rap italiano. Tempo fa la mia amica Discordia mi ha fatto ascoltare un gruppo e mi ha raccontato una storia. Era Bari, erano gli anni 2000, compagni di tutta la provincia si incontravano alla piazza delle Poste. Erano mesi di fermento in una Bari che vedeva rinascere la lotta degli studenti, le occupazioni e i cortei mai visti pieni come allora. La musica accompagnava le giornate. Finiti quei fantastici anni, molti andarono via, ma Moreno no. Moreno non lasciò la strada e la strada parlò attraverso gli occhi di Moreno. Venne letteralmente catapultata nei suoi versi. Moreno l'abbiamo perso. È stato un pezzo della storia militante underground della sua città, un amico e un compagno di tutti. Cantante di un gruppo rapcore barese che ha messo insieme l'urlo del metal con la rabbia del synth. Il rap che diffonde il verbo. La rivoluzione delle scimmie è un suono primordiale nel caos della giungla urbana di ora. 60 Monkeys Armata, rivoluzione della musica categoria infinita. 60 Monkeys Armata. E che Moreno suoni la sua musica ora e sempre. Yeah. Quelle volte che ho preso non piango, ma cerco una base d'ottenere. Bene, bene, abbiamo iniziato molto bene. Questo era il primo brano, intro. E adesso subito a cannone, il brano dal titolo Per quanto mi riguarda. Sempre loro, 60 Monkeys Armata. Sixty Monkeys Armata, grande Moreno. E adesso Artificial Kid, Danno, Cyberpunk State of Mind. Per poi racconteranno cronache di un dopo bomba, di una città che cresce verso l'alto mentre il cielo sprofonda, e di un'umanità senza più umanità, e di un sole sempre meno sole, sempre più ombra. Mio padre è un televisore gigante, 8 milioni di colori. Mia madre è una connessione a banda larga. Mio fratello è tenuto in vita da 4 processori. La mia vita è un sottoprodotto di una sottomarca. La mia ragazza è un avatar tridimensionale, perfetta quando risplende nella sua luce virtuale. Io vorrei amarla, ma non la riesco più a toccare. Ora restano solo lacrime amare che stanno di sale. Il mio cervello è un portento di biomeccanica, programmato e brevettato da una multinazionale. Nazionale. Ho uno scanner interno collegato con la mia anima e trasmetto ogni mio dubbio al comando generale. Nei miei occhi c'è un microchip in grado di assimilare ogni dato codificato a livello subliminale. Sono come un buco nero, capace solo di ingoiare tutto quanto fino a quando niente può più farmi male. L'anomalia in tutto questo è questo mio stupido cuore che non smette mai di battere e continua a palpitare. E nonostante abbia attivato ogni inibitore, quest'urgenza che ho dentro

solo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Pienza, 100 celle equi, Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Castalbertone, Portonaccio New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street è qui. Roma meticcia, claro che sì. Assalti frontali, Roma meticcia. Vivo dei comitati, diceva, la casa è un diritto, la casa è un diritto di tutti, non ci deve costare niente vivere sulla terra. E passiamo ai noti Casa Dolce Casa. Casa dolce casa, senza casa io come farò? Senza un tetto sulla testa come sopravviverò? A un altro autunno, a un altro inverno, a neve e pioggia, al freddo maledetto. Cara casa dolce casa, dimmi dove mi nasconderò, se avrò bisogno di stare solo nella mia stanza, dentro al mio mondo, senza nessuno che disturbi il mio sonno. Casa dolce casa, quanto costi io ti occuperei, con la forza a tutti i costi io ti prenderei. Ma poi mi sveglio coi poliziotti, antisommossa, sgomberi coatti e tra avvocati, processi ci spendo uguale. Casa dolce casa, per averti come devo fare, come devo fare, come devo fare, come devo fare. Abito a Bologna da 20 anni, quasi che la amo. Apro la finestra nella notte, sento il suo richiamo. Mi dice vieni, esci, partecipa. E vive vegeta da lunedì a domenica. Sa essere simpatica ma è cinica. Quando chiede il conto, non ti guarda in faccia, ti stritola. Il prezzo dell'affitto è qualche cosa di impossibile. La gente spende 400 per le camere. Anche a Roma, a Milano, la situazione è simile. Il suo peso è insostenibile. Nessuno può permettersi di mettere su una famiglia. Disperati poi si attaccano ad una bottiglia. Dice non si deve, starci dentro, vai al lavoro. Fatti il culo, tutto quello che guadagni dalla loro. E tutti vogliono la popolare, non ce n'è abbastanza. Devi avere figli per avere casa. Mi basterebbe pure un mono in periferia, un bagno, una cucina, poter dire questa è casa mia. Sogno un giardino in campagna per gli animali, e la domenica invitare i miei cari. Ospitare qualche amico quando ne ha bisogno. Come quasi tutti non posso permettermelo, ma non mi vergogno ad ammettere la verità. Casa dolce casa, ti desidero, ma chi lo sa. Se potrò averti, potrò conoscerti. Io cambierò altre 30 residenze senza viverti. E speri di tirare il colpo alla lotteria. Tutti grattano, nessuno vince, cosa vuoi che sia. Pochi trovano la truffa giusta, la giusta svolta. La mia generazione un'altra volta sulla strada, sulla strada. Chiede casa, cerca casa, vuole casa dolce casa. Casa dolce casa, senza casa io come farò? Senza un tetto sulla testa come sopravviverò? A un altro autunno, a un altro inverno, a neve e pioggia, al freddo maledetto. Cara casa dolce casa, dimmi dove mi nasconderò, se avrò bisogno di stare solo nella mia stanza, dentro al mio mondo, senza nessuno che disturbi il mio sonno. Casa dolce casa, quanto costi io ti occuperei, con la forza a tutti i costi io ti prenderei. Ma poi mi sveglio coi poliziotti, antisommossa, sgomberi coatti e tra avvocati, processi ci spendo uguale. Casa dolce casa, per averti come devo fare, come devo fare, come devo fare, come devo fare. C'è chi farebbe carte false, chi diventa schiavo del compromesso, sta zitto e fa il bravo. Chi si fa muto che diventerà la sua galera. C'è chi diventa criminale anche se non voleva. C'è chi si annulla, chi non ci pensa. Chi si prostituisce pur di non restarne senza. Chi vende anima, il corpo, il suo tempo, la sua arte, il suo conoscere, il suo talento. Uno su mille c'è la fama, ciò non mi consola. E diventare numero non mi fa gola. E tu ci provi in mille modi, il tempo passa. Sei grande, sei adulto, ti salvi con l'indulto. A questo punto conveniva comportarsi male. Ma io volevo solo casa e qualche cosa da mangiare. Niente lusso, niente villa, niente Benz. Non volevo diventare un manager. Volevo vivere una vita dignitosa, senza chiedere, pregare e ginocchiarmi per ogni cosa. Non volevo fare il prete, neanche lo strozzino, neanche stare 12 ore dentro un magazzino. Volevo un posto sulla terra, che è mio diritto. Perché Dio non chiede tasse, non chiede affitto. E per tutti ha dato un posto, ha dato un tempo, ha dato ossigeno. A tutti ha dato libero arbitrio. Allora dimmi per quale motivo sono sempre pochi che decidono, per tanti che tribolano. Ci basterebbe cibo, casa, acqua, un po' di libertà. Ma alla fine è un eroe quello che ce la fa. Loro ci drogano, ci anestetizzano, ci narcotizzano. Ci tengo

che c'eri come una farfalla. Balla di più sulle punte, guarda, più sulle punte, più avanti la spalla. Destro, sinistro, sinistro, montante, più avanti la spalla. Punta sul mento, dai, mandala a terra, occhio a quel destro di merda. Dai, non baciarti il cemento, alzati, alza la guardia. Piedi leggeri come una farfalla, lei che ti manca. Destro, sinistro, continua a mancare, continua a schivarla. Occhio alla pancia, occhio alla guardia, via dalle corde, poi copri la faccia. Ancora dei colpi alla pancia, questa coi pugni ti spacca. Presto ti allunga le braccia da braccia, l'arbitro guarda e divide, sta calmo. Respira più a fondo, di più sulle punte, controlla l'affanno. Bravo, ora destro, sinistro, destro, sinistro, montante, finché non la vedi col sangue. Destro, sinistro, destro, sinistro, montante, finché non la vedi col sangue. Per ogni pezzo che ho perso di me, come foglie strappate dal vento passato. Per ogni taglio coperto col freddo del nulla, che ha reso il mio cuore ghiacciato. Per ogni testa allo specchio, ogni volta che ho perso qualcosa, ogni rosa, ogni spina, ogni volta che ho messo le nocche sul mondo, ogni fondo toccato, ogni botta, ogni sfida. Per tutti quei pezzi che ho perso di me, come foglie strappate dal vento passato. Tutti quei tagli coperti col freddo del nulla, che ha reso il mio cuore ghiacciato. Per ogni testa allo specchio, ogni volta che ho perso qualcosa, ogni rosa, ogni spina, ogni volta che ho messo le nocche sul mondo, ogni sfida che ho vinto era contro la vita, contro la vita, contro la vita. Adesso Corveleno a pieno titolo. A puttana il cielo verso l'ultima goccia di veleno, un'altra boccia di odio pieno. Adesso guarda quanti siamo, questa è Roma e non ce la trovi la firma sotto la tua resa. E mo senti come suona, e mo senti quanto pesa ogni macigno che mando giù e che ingoia forza. La tigre mi ripatisce, il tempo non scalfisce la mia scorza. Un massiccio forza e scardina ogni serratura sul loop, finché non resta solo questa musica dura. E tu salta come una molla che va giù e che va su, mentre rima sul tempo di parte la mia caccia al marabù. Roba buca la bolla, butta giù, tot e metta bu, ogni schiavitù

trovo il suolo dove si batte il passo. Se trovo pulsazioni in base ad esse agisco. Istinto a rischio, messo a contatto con il resto. Scimmia cresciuta ai bordi del deserto. Nel cielo aperto, tra notti insonne ed incoscienti. Voglia di scordarsi e ripartire pronti. Ma qualcosa ostacola, provoca tensione equivoca. Scivola, solida, solitamente poco pratica. Dai su, mettici alla prova. Vediamo se davvero poi non siamo in grado di dartene la prova. Una sola per ora basterebbe, potrebbe compalizzarne 900 su 1000. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Nello spazio sgancio sonda dopo sonda. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Nello spazio sgancio sonda dopo sonda. Così aggrappandomi a questo ritmo compatto, esatto, in questo modo tengo il giusto contatto. Che può coinvolgerti, stravolgerti. In questa bolgia di sconvolti l'obbligo è perderci. Per ritrovarci o rimanerci, starci. Meglio guardarci in faccia calcolando anche i dettagli più minimi. Sono contatti a volte sterili. Prendi e imparali, c'è lo sbaglio per riprenderti. Per oltre 100 ostacoli in questa pazza che in vita disturba. Sturba, che manda in testa col boom o cappa con quest'erba. Ma c'è qualcuno che a volte non sale dal fondo. C'è qualcuno a cui non scende più questa pezza. Fra l'altro distante, resta distante la sua lunghezza d'onda. Tanti belli saluti per chi poi non torna. Sono contatti che rompono quando si interrompono. Lasciano il tempo che trovano, soltanto il brivido o passaggio di questo ricordo che sfuma, blocca il sistema. Cambia il zero se scompare a questa disciplina. Aspetto, cerco il contatto, dopo passo e chiudo. Questo messo è gigante, un grido d'aiuto. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Nello spazio sgancio sonda dopo sonda. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Se fosse distante dalla maggior parte della gente circostante. A volte paga, ma a volte è muy pesante. Pesa sulla schiena sta disperazione appesa addosso. Bello il mondo, almeno finché non si tinge di rosso. Arrivano richieste di soccorso dalle strade. Troppa la violenza in queste serate. Troppo alto il prezzo per rinunciare al disprezzo. Verso chi non fa scelte fermo nel suo giusto mezzo. Riporto storie che raccontano di inferni quotidiani. Zone d'ombra perse fra confini lontani. Sempre poco nelle mani, bollettino di guerra di una generazione che ne esce stravolta. Stavolta è come l'altra volta, solo parole le nostre. Bruceremo il sole, solo promesse. È una libertà sintetica quella di cambiare canale. Coglionati da racconti su un paradiso artificiale che è improponibile. Abbiamo il nostro nome su ogni proiettile. Gli scudi al massimo, ma la difesa è debole. Questa è una richiesta d'aiuto, un SOS disperato perché il tempo qua è quasi scaduto. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Nello spazio sgancio sonda dopo sonda. Questo è un SOS, un grido d'aiuto. Cerco contatti perché tutto intorno è vuoto. E non si affronta, è una realtà che sfonda. Nello spazio sgancio sonda dopo sonda. Questo è un SOS. E va bene, adesso facciamo un salto a Napoli. Loro sono i Co'Sang. Goppe produzione Co'Sang. Oggi a Napoli tu quando vuoi stare in the look. Le damiezze fra le strade sono che nostre. Sti piezze e merda. Sti puttana poca volta, mo caccia una fuori. Sto parlando in lodi, quella che dona allora. Ma di uno vero sun, che hanno tsunami. Abbandonando la calma e so disfanno la fame. Le vite scure, ma separano la vita e fuori. I moro per rivincite e mi precipita. A bruci per un desiderio e vincite. Ma mamma dice sempre cosa fa, si sappicciano. Dedicata, ti dice che non ci sono, che mo su sciuta. Puffano e se la fottano. Unite tarantella, tu non mi trovi in tuo studio. A voce mia, baci Marianella. 504 numero fuori il cancello. A te guaglione, vanno pazzi, spiegano a fama. Tenere una firma, una mano. A voce amico, come ispirazione, pari evoluzione. A così funziona, orione se infoca con poco. Corone giura, la droga, mantene figli nessuno. E poi mi trovo innanzi si pisciuno. Fanno come si insanno quando, spacca Napoli, 7 anni fa in da tutta Italia. C'ha sta a tavola, con una da capo, perché io che è cagnato. Supermercato lo dice, roba miscata. E chi ha scassato ieri, rindano in ucchiere. E per parama per valori, 2005 caga mano rap. Fanci vre pistola, si chi sono è una sola. Viste rono, la troia balla sotto e palla, non ci viste troppo. Poi ci va una scossa, scocco e saluto. Niente aveva regolato, cavano stanco per rullando. Non dammo ancora i passi, mezzo e capo pazzi. E panchini, palazzi, ninghino, fava, sacchi e grossi. E salutami compagni, goppe e fuss. Goppe e fuss. Hip Hop Napoli. E ancora loro, Cosang. Questo batte me una gerga, non credere in un rap. Per chi non crede, che step a kill che creare ne vorrei. Cosang. Nei miei basi, pensi sbagliate, portano un canne, si abitan, sacci che tengo ghiacci del sangue, che siendo one e guardi fanno apposta a resta. E so crescendo tengo rimane senza compagni. Yeah, yeah, basa una scusa, portano guerra. Frate volano, ma so pronto a se fai tanter. Chiamami fama, si vede sordare le strette mani, si ha con marina, rigana, femmina con me. Troppi creature intere, Cristo non è giz. Appiccinata luce per chi se ne scisa a cheese. Parole spise in faccia, chi se sente, chi ne raggia. Chi se scrive un corporaccio, figlio mio in un braccio. Troppi scemi senza flow, che faccio fora quando so. Quando si viene rima con caricatore. E senza infama reto fiero, giù la bocca. Su malamore, coscio corpo, fino a quando giuro noi. A cui faccio in manapola, per chi non metta faccio vostro nome. Che sei per chi non porta e porta come fosse cella e cella. Noi ci cercano bruttino bello, mentre fuori che stai con McKell. Intanto ancora un vega niente rove. A tour con l'ispirazione a situazione rai. A picce carta tutto parto ma se corpo con quello che porta. E si verde persona attorno, verde per due nessuno. E giorni più cruri, bruciano e giorni maturi. Troppo ammaggiare a creature. Si vinne che il cano può toccare sotto un muro. Sagliala stu. Cosang sono per vagliuna verso. Chi vera verità lontano rollus. E trova forza rindo stress. Sull'ora e sangue sperzi. Sono verso grezzi che vanno senza prezzi più nato. Se chi crede che brilla che schizza. I vega lacrime che scorrono. Troppa mano che si lassano. So paura che non passano. Per mo resti in debro ma sempre che scavazzo. Mantengo vero si mi tengo fuori dei favazzo. Questo mo è per chi non crede. Con ogni quartiere che è una storia vera. Passione galera. Nessuno più spera. Giustizia e veste nere. Ci resta fei serie. Fin quando va in cielo. Questo mo è per chi non crede. Con ogni quartiere che è una storia vera. Passione galera. Nessuno più spera. Sì. Giustizia e veste nere, ci resta, yeah. Fei seri, fin quando non vai in giro. Rappresentammo Napoli a due vasi, la fanno tra mai macchine, a due mani armate. Sparano guardia con pietra in salto. Cosan, creature, cadere in canne. Funerale a due clan rivali, fanno regalo. Per mogliere, galera e dediche, lui vittima. Rastessare che si carinala. Zero certezza per l'amore, piccione ci serve. Che le capimmo simmo noi stessi. Celebramme morti l'indecchese. Un romanzo rovaglioni anche senza short. Gassa parecchi sordi, e nero non supporto. Ne scondata con me, perché appartengo ai tempi a ora. Una strada lunga che comincia con siente mo. Beatbox senza pipot, jeepo, spirito d'azienda, elicottero in giro. Un giro insieme dietro galeotto, tatuata quando era una moda. Leggendo i miei zavi con macchine, prima che se niente. Una vespa ogni colore che asceva, ma roppa scena varia. Cagna, passano l'anno, mo sotto a regga nire, sirena la mortuaria. Questo mo è per chi non crede. Con ogni quartiere che è una storia vera, passione galera. Nessuno più spera giustizia e veste nere. Ci resta fei serie fin quando va in giro. Questo mo è per chi non crede. Con ogni quartiere che è una storia vera. Passione e galera. Nessuno più spera giustizia e veste nere. Ci resta fei serie fin quando va in giro. E allora con questo ultimo brano restiamo sempre a Napoli, loro sono i Fossera. Fossera, Fossera, Fossera, spirito e materia. La marcia della sopravvivenza. La marcia della sopravvivenza. È infame, è infame. Si passa con pushment, è infame. Sta marcia la sopravvivenza, pensi canta in mano. Se per ne segni che studici pensi cane. Tiranno se porta ne preda ancora più infame. Ora loro senza violenza, sono più infame. Sta marcia la sopravvivenza, pensi canta in mano. E cro croce bruciata. Perché dici pensi cana, cacci le rete, si lisciure e sei fame. Ho fuoco sa che scioglie la ticana. La titana bene, oggi non si muore sul poppana. E riune né chiude né niente. Fanno avere chiù perché così nessuno te leva. Che la cattina temo tu che con te zena. A fune mani da materia che te magni. E viene uno strombo lo cemento. Uomo l'oli uno in galera. E numero uno corno, cocco uno né vero né sente. Bocca muta a stente, bottano fuori una look. E ta buca senza uomo. Tocca a chi fuori e fumi dall'occhio. Una buchina tocco cracca a bottiglia. La lava l'anima con l'acqua sporca serena. E segna le superficiali sono troppe. A violenti scoppi dei tempi dei rossi. Gente dall'esempio la rassegnazione. Io che fermo rompo. O shock che ti porta l'illusione. Chi ti riesce supporto. E camera a sfardantera. Quando passa in casa ne povera la cifra è zero. Dopo conto quando non parla. Barra vaganda voce giro con mano fila. E spava attorno e trao. Sloro che grava. Coppe faccio tubi innocente. Lui gira cauce e tosta marcia. Vita a cauce. E sabato sordo con sballo. Non manca bicchiere. Sdozzano con sterza mare senza pensiero. Svolto e vi scoppi. Non si vende sempre stesso. L'euro raddoppi. Non gli scippo nel muro. L'occhio su sadra che ha paura ancora. Si cerca una cu. Bandiere fuori e barcun. O pallone è l'unica cosa sicura. Scatta la notizia. La macchia si cadu. Faccio vecchio guardi attorno e giù. Sotto a sto cielo. Svere futuro. Ti maxi sgommano. I cortuni sono penne che scrivono. Tracciano senza fortuna. Fottuto attorno ai sanna capi. Cercando un luogo. A speranza e nessuno. È infame. A casa i passi troppo cemento. È infame. Sta marcia la sua capi. Pensi, pensi, canta in mano. Se vede nei segni. Casta tu dici, pensi, cana. Tiranna se porta nei preda. Ancora chi un fama. Ora loro senza violenza. Sono chi un fama. Sta marcia la sua capi. Pensi, pensi, canta in mano. E croce bruciata. Perché dici, pensi, cana. Cacci le rete. Si nessuno e sei. È infame. A marcia chi non tiene niente. Stenne in mano. Mosse rende poi tra mente con dell'am. Si quando cade a terra e un mare. Non non senti un mondo che è strano. Ma le leggi rotonare. Sta faccio un pesante l'aria. A strada varia si è cagnata. Spalla e spalla batte passero passata. A capaizzata. Obietta forte chi inzerra assignata. Chi piglia porta insecchiata. Marcia infamo su anni e prata. Pesegna per la cagna e strada. Chi osse indossato. Non solamente armato. Non giochi mente fotto stata. Non gira e busta e fatta armata. Ma che sia marcenata. Perché a così non è creata. Gli assi a tutto se sei bucato. Chi tiene forza poi è tornato. O forse mi rimace asciuta. E se a così perché chi ho astuta. Sull'uguagliuto si è salvato. Ma ponte dedo è condannato. E poi sistema è cancellato. A casa i passi troppo cemento. È infame. Sta marcia la sua capi. Pensi, pensi, canta in mano. Se vede nei segni. Che tu dici, pensi, cana. Tiranna se porta nei preda. Ancora chi un fama. Ora loro senza violenza. Sono chi un fama. Sta marcia la sua capi. Pensi, pensi, canta in mano. E croce bruciata. Perché dici, pensi, cana. Cacci le rete. Si nessuno e sei. È infame. A casa i passi troppo cemento. È infame. Sta marcia la sua capi. Pensi, pensi, canta in mano. Se vede nei segni. Che tu dici, pensi, cana. Tiranna se porta nei preda, ancora chi un fama. Ora loro senza violenza, sono chi un fama. Sta marcia la sua capi, pensi, pensi, canta in mano. E croce bruciata, perché dici, pensi, cana. Cacci le rete, si lisciure e sei. E con la marcia della sopravvivenza di Fossera, il Treccia vi saluta. Alla prossima puntata. Bene, allora alla prossima. E ricordate, le chiacchiere stanno a zero. Musica, non parole. Bella, alla prossima. Se non hai paura della morte, ascolta Radio Folle.